Farmi scaricare un segno da cui mi torno. Fai credere sia da consolarsi prima che nulla sia da descrivere. Farò anche di poco e tengo breve. Si lascia il segno al segno, ciò che non esiste al momento dentro il mondo. Ciò che ho inciso qui si può trovare, resta fino all'ultimo residuo che è nutrito nascosto.